Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Parliamo di elezioni, di maestri ed allievi, del trono di Afrodite, nonché di consiglieri televisivi.